Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. È la domenica di Radio 24, ma c'è anche il sabato di Radio 24 e ci siamo con il sabato pomeriggio del sabato del villaggio, dove il villaggio, lo sapete, è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida in diretta ogni sabato per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, lo prometto, fino alle 18 sono qui, ma voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, ve lo ripeto per bene, 349-238-6666, e il mio account di Twitter, @MartaCagnola. L'hashtag, sempre per chiusa Twitter, cancelletto ISDV, le iniziali del sabato del villaggio. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Torna nel nostro sabato del villaggio il gastronauta, questa volta con Davide Paolini parliamo di panini e andiamo a fare un viaggio in Versilia. Nella prima ora anche le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta l'argomento saranno gli ad block, scopriremo insieme di cosa si tratta. Tanto tanto cinema con tutte le novità in sala, ma iniziamo parlando di TV. Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. La rivoluzione non verrà trasmessa in televisione, diceva questa vecchia canzone, ma sempre ottima questa, la rivoluzione non verrà trasmessa in televisione. La rivoluzione forse non verrà trasmessa in televisione, nel senso che per fare la rivoluzione bisogna uscire di casa, ma in queste prime giornate così un po' in cui si respira l'aria autunnale, a volte si ha voglia anche di stare in casa e di guardare la TV. Mica dobbiamo uscire per forza durante il fine settimana, ma in televisione ultimamente è successo di tutto. Non sto parlando solo dei contenuti dei programmi, ma non si capisce più che canali ci sono, a che tassi del telecomando. Sta succedendo di tutto, sta cambiando di tutto. Allora, per cercare di capire come sarà la prossima stagione televisiva, sia come contenuti, sia proprio per i tasti che dobbiamo schiacciare sul telecomando, abbiamo un amico del sabato del villaggio che è tornato telefonicamente a trovarci. Buongiorno al direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Buongiorno. Buongiorno direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Guarda, ciao, Marta. Ho qua la copia del tuo giornale che stavo sfogliando e vedo che tu ovviamente rispondi a un sacco di lettere. Mi fa anche molto ridere perché tu rispondi sempre in maniera molto spiritosa alle lettere che ricevi. Leggo del divertimento nelle risposte ai tuoi lettori. In quanti ti stanno scrivendo per capire come sarà questa nuova stagione e cosa devono fare per vedere la TV? Perché sta succedendo di tutto. Sì, allora, innanzitutto per me è un grande divertimento personale rispondere ai lettori, io cerco di rispondere a tutti, quello che si vede sul giornale è soltanto una piccola parte di quello ovviamente che mi arriva, ma io rispondo anche, diciamo, privatamente a tutti quelli che mi scrivono. Attenzione, perché adesso ti arriverà il doppio delle lettere dopo questa affermazione. No, però lo so, sono, però ripeto, è un piacere. Diciamo che per riagganciarmi a quello che dicevi tu, la prima cosa che bisogna segnalare, perché è importante parlare soprattutto della televisione in chiaro, è che sono cambiati i canali 8 e 9, cioè nominalmente sono sempre gli stessi MTV e DJTV, ma in realtà è cambiato completamente sia il proprietario, il broadcaster, diciamo, sia il contenuto. Sono infatti diventati in chiaro i contenuti di Sky e di Discovery. Discovery in realtà lo era già, ma su canali molto più marginali. E quindi questa è la prima cosa. 8 e 9 stanno diventando dei player importantissimi, e anche se con due funzioni diverse. Il canale di Sky è un canale sfruttato soprattutto come vetrina, perché ovviamente la Pay TV, poi il suo grande interesse è quello di fare abbonamenti, quindi vedremo su MTV soprattutto il meglio di, oppure riassunti, oppure qualche cosa già passata su, per la maggior parte dei casi già passata in Pay. Invece il 9 è un canale che sposta i contenuti da canali che erano più difficili da raggiungere, quindi con due o tre tocchi di telecomando, e che invece vanno in prima, praticamente in guerra diretta con le generaliste. Diventano, visto, di fatto delle generaliste. Si è visto ad esempio con la finale degli US Open femminili, esatto, che esatto, ha fatto degli ottimi ascolti, ha appunto da rete, pazzesco, come si diceva un tempo, da rete generalista. Da rete generalista, sì, sì, è andata quasi a 1,5 milioni, ed è stato tra l'altro un regalo, chiamiamolo così, appunto, che è stato fatto da Discovery, perché Discovery detiene i diritti di Eurosport, che va, ricordiamo, in Pay sia sulla piattaforma di Sky sia su Mediaset Premium. Prima di chiederti invece quello che è successo, per capirlo insieme, sul telecomando di Sky, Discovery avrà le Olimpiadi, se non mi sbaglio, esatto, quindi esatto, succederà di tutto anche con le Olimpiadi. Esatto, esatto, esatto. Questo, diciamo, è una... si stanno scaldando i motori, anche a questo inizio di stagione si stanno scaldando i motori. Infatti le generaliste, cioè Sky, Rai e Mediaset, stanno puntando molto su prodotti nuovi, che poi, se vogliamo, possiamo anche parlare di cosa si intende per nuovo in TV, che è un concetto molto relativo, proprio per cercare di tracciare un territorio, come fanno i gatti, diciamo, per cercare di evitare appunto questo tipo di, chiamiamola sempre in termini bonari, ma di aggressione commerciale. Allora, prima di chiederti invece del 105-106 per chi usa il telecomando di Sky, perché anche sì, qui anche il 104, perché il 104 è un'altra storia, ancora sempre che stiamo dando i numeri, allora, lì è successo questo, che Mediaset si è tolta dai canali di Sky, dal 104, 105 e 106, con una mossa che molti hanno giudicato improvvida, altri invece giudicano strategica, perché comunque vuol dire regalare dei contenuti, o comunque dare dei contenuti all'avversario. Però questo cosa ha provocato? Ha provocato che questi canali sono stati subito rioccupati, e Sky ha messo il 104, Rai 4, che è un canale dedicato soprattutto alle serie televisive, alle serie americane, e quindi noi abbiamo la possibilità di vedere in chiaro adesso tantissime serie che prima non vedevamo. Poi ci sono 105 e 106, che sono invece canali appunto dove prima c'era Canale 5, dove prima c'era Italia 1, che sono dedicati a Sky 1, che è la rete, diciamo il canale più pop di Sky, quello per intenderci di X Factor, quello di Masterchef, eccetera. Invece c'è il 106, se l'è preso Fox. Ecco, allora, chi era abituato a guardare la TV usando solo il telecomando di Sky rischia, adesso ti chiederò, di dimenticarsi, sì, di guardare le reti Mediaset. Qualcuno ha detto che per questo le reti Mediaset hanno perso ascolti, e in particolare questa settimana c'è stata la sfida, prima puntata del Grande Fratello contro altra puntata delle selezioni di X Factor. Il Grande Fratello, ovviamente non sono paragonabili come ordini di grandezze, però il Grande Fratello è andato forse un filino meno bene del previsto. Secondo te c'è lo zampino di questa mossa? Io ho visto dei calcoli che sono stati fatti da un grande quotidiano nazionale, ma che erano, con tutto il rispetto, sballati, perché paragonavano, cioè sono dati che non sono confrontabili, perché soprattutto paragonavano, cioè mettevano in confronto serate diverse con contenuti diversi. Io penso che possa esserci sì qualche sgocciolio di ascolto, però credo che il problema del Grande Fratello non sia stato quello di non essere trasmesso da Sky, né che Sky abbia trasmesso i provini di X Factor per contrastare il Grande Fratello. Penso che il Grande Fratello da una parte abbia sempre avuto un inizio difficile, e dall'altra paghi il fatto che, ricordiamocelo, si chiama Grande Fratello 14, vuol dire che è la 14ª ecco, volta che va in onda, e con un format praticamente identico, e nemmeno Don Matteo, o forse solo Don Matteo, riesce a tenere, che peraltro non è arrivato ancora a 14, riesce a tenere l'attenzione per così tante stagioni. Allora, visto problema. Che prima hai detto bisogna fare qualcosa di nuovo, e cos'è il nuovo? Io qualche giorno fa sono stata a Torino al Pre-Italia, che molti sanno è una manifestazione internazionale che viene organizzata in Italia, che riunisce un po' tanti broadcaster, tantissime reti di tutto il mondo che presentano un po' il nuovo. La RAI presentava in particolare la anteprima di un programma che sarà destinato anche a fare qualche polemica, che si chiama Monte Bianco, che sarà una sorta di reality show ma anche gioco d'avventura con delle coppie, celebrità e scalatore, rocciatore, che si sfideranno a questa scalata del Monte Bianco. Allora, ne ho parlato col direttore di Rai 2, Angelo Teodoli, al quale intanto però ho chiesto se in questi 35 mesi in cui ha fatto il direttore sono cambiate tutte queste cose, è diverso fare un palinsesto televisivo e che cosa di nuovo, come ci si fa a inventare qualcosa di nuovo. Direttore, lo faccio ascoltare a te insieme agli ascoltatori e poi commentiamo queste parole del direttore di Rai 2, Angelo Teodoli. Sicuramente adesso ci saranno delle competizioni molto più forti, soprattutto i nuovi player della televisione generalista hanno alle spalle dei magazzini di prodotti estremamente efficaci che possono utilizzare senza magari con una facilità e con una disponibilità economica molto più semplice. Non so se l'arrivo di X Factor di Damblé su una rete che fino a ieri non ce l'aveva, magari Rai non può permetterselo, o l'arrivo di un gran premio di motociclismo, uno ogni tanto che serve per dare immagine, forse un'azienda come Rai deve avrebbe dovuto investire tanti altri soldi, ma lì i business si fanno un po', e questa è una cosa un po' particolare, perché venga utilizzato un business pay per fare poi business generalista, è una novità assoluta, è molto particolare, però torno a ripetere, insomma, per costruirsi un'identità non è facile. Intanto qui al Pre-Italia si è partita con l'anticipazione di Monte Bianco e tu l'hai detto, si poteva evitare, potevamo andare direttamente da Pechino Express a Boss in Incognito e invece inventarsi qualcosa di nuovo. Perché? Che cosa? Serve per portare cose nuove in televisione, no, cercare di coinvolgere il pubblico diverso e presentare anche una parte d'Italia che magari è rappresentata soltanto con dei meccanismi vecchi e magari un po' meno coinvolgenti. Ecco qua, direttore, questo ci ha detto il direttore di Rai 2, Angelo Teodoli, cioè coinvolgere pubblici diversi, poi giustamente lui dice anche territori diversi perché dovrebbe essere una delle missioni del servizio pubblico, e magari anche abbassare l'età. Secondo te che cosa va fatto per trovare qualcosa di nuovo in TV? Perché in tanti ci scrivono, sì, però in TV ci sono un po' sempre le stesse cose, eh? Allora, innanzitutto è vero che in TV ci sono sempre le stesse cose, e non a caso direi, se vai a vedere gli ascolti di questo inizio stagione, anche programmi vincenti come per esempio Tale Quale Show o Tu Sì Che Vales registrano una flessione dell'ascolto, non dello share ma comunque dell'ascolto diciamo numerico, quindi sono meno milioni di persone, qui parliamo addirittura proprio di milioni di persone che seguono la cosa, quindi questo è un dato. Una cosa che vorrei sottolineare, che ha detto il direttore di Rai 2, che è importante, è quella per esempio della distrazione della RAI rispetto allo sport, perché è assurdo che la RAI, secondo me, non abbia i diritti, non solo vabbè, dei campionati di calcio, e quello voglio dire ci può stare, però i diritti della Champions. Accidenti, stiamo perdendo il direttore di Sorrisi, Aldo Vitali, sentiamo se ce l'abbiamo, è cascato. Vabbè, allora facciamo una cosa, noi cerchiamo di richiamarlo e vediamo se riusciamo a recuperare il direttore. Intanto però noi abbiamo già in linea Davide Paolini. Davide, ci sei già, gastronauta? Eccoci qua. Allora Davide, noi ci troviamo tra qualche istante perché abbiamo i consigli per chi sta viaggiando. Cerco di capire se abbiamo recuperato anche Aldo Vitali per una battuta finale col direttore di Sorrisi. Poi Davide, con te dobbiamo parlare di panini, eh? Ecco, abbiamo anche te, abbiamo anche il direttore di Sorrisi. Direttore, eccoci, dicevi il problema dello sport. I diritti sportivi che la RAI ha ignorato, il rugby, il basket, il MotoGP, la Formula 1 in parte, sono un assurdo per un servizio pubblico. Per quanto riguarda invece il discorso della i nuovi contenuti dei broadcaster, l'abbiamo detto, cioè per molti sono vetrina. Io dubito che X Factor andrà in onda in chiaro, perché altrimenti sarebbe un controsenso dal punto di vista della pay. Altrimenti perché pagare la pay, se no. Uno, ti chiedo solo un flash di una trasmissione che tu aspetti con ansia per quest'anno che viene. Allora, due cose. Una cosa è Netflix, magari è un discorso molto lungo da fare, ma sta per arrivare Netflix in Italia, che è una rete, cioè non è una rete, è un diciamo un broadcaster che agisce in maniera non lineare, quindi ti dà i contenuti quando vuoi tu, via internet, eccetera. E questo succederà per la fine di ottobre. Questo, sono molto curioso di vedere anche la reazione che avrà in Italia. Per quanto riguarda invece le trasmissioni che aspetto, diciamo, normali, tra virgolette, oltre a Montebianco, che sono molto curioso di vedere, perché è di Pechino Press in verticale. Sì, abbiamo visto pochissime immagini finora, quindi non ti posso svelare granché. Io ho visto veramente pochi secondi al Pre-Italia. Sì, infatti. E poi io devo dire che io sono, allora, una cosa che è finita, che a me è piaciuta, è Grand Hotel, cioè una fiction, un po' una specie di Il Segreto, però fatto in Italia, Italia-Austria, un po' telenovela, che è andata in prima serata, è andata molto bene con ascolti in crescendo. E poi di quello che è in onda adesso, trovo che sia, come qualità generale del prodotto, sia di eccellenza assoluta a livello internazionale, Il Giovane Montalbano. Ah, certo, anche altro grande prodotto da esportazione. Grazie, sì. Direttore, grazie ad Aldo Vitali di essere stato con noi. Grazie, allora, Marta, quando lanciano Netflix ti richiamo, così commentiamo, sì, in diretta, se vale la pena, diamo un po' di consigli e vediamo cosa abbiamo comprato, vediamo se abbiamo comprato le stesse cose. È vero, oppure, è vero. Oppure no. Grazie. Di tutto. Ciao. Grazie Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni. Una brevissima pausa per le abilità. Abbiamo già Davide Paolini, quindi tra poco parleremo di Panini. A tra poco. Il sabato del villaggio. Felicità. Beh, se lo dice Albano, è vero, felicità è un bicchiere di vino con un panino. È vero, Davide Paolini, ciao Davide. Beh, ciao, ma con un bicchiere di vino di Albano forse. Ah, beh, mi dicono siano buoni, non ho mai provato io i vini non di Albano, male, ma non mi dicono non che non male. Siano male. No, assolutamente. Ma sai, oggi il panino va di gran moda, anche perché se a me durante le ore appunto di... tra l'una e le due uno gira un po', vede che non so quanta gente va a mangiare il panino, però ci sono panini e panini ovviamente, ma io devo dire che la capitale del panino però la vedo in Firenze, ah, con un panino storico che è il Lampredotto. Certo. Il Lampredotto ormai, se uno va a Firenze per visitare gli Uffizi dal punto di vista artistico, se vuole portarsi così un souvenir dal punto di vista del cibo, sicuramente il panino al Lampredotto. Cos'è il Lampredotto? Non è una trip come molti pensano, è l'ultima parte dello stomaco, è un, diciamo, un mangiare storico fatto dai trippai, dai banchetti, e quindi ci sono ancora, sono rimasti 3 o 4 banchetti in tutta Firenze che sono affollatissimi, specialmente dagli stranieri. Uno nel mercato del Porcellino, uno in via dei Macci, e poi c'è uno in piazza Beccaria, insomma sono storici, e tu vedi questi stranieri giapponesi che si fotografano con questo panino, perché ormai è diventato importante quando si va a Firenze almeno assaggiare il panino al Lampredotto. Però c'è, a Firenze c'è anche, diciamo, un panino gourmet, perché i panini appunto sono cambiati nel tempo, la ciriola o la michetta con la mortadella oggi sono cambiati, nel senso che dentro con la mortadella ci vanno tanti altri componenti raffinati, ci può andare del formaggio, ci possono andare dei peperoni, insomma oggi è diventato abbastanza il panino gastronomico. E a Firenze c'è Alessandro Frassica, il posto si chiama Ino, e devo dire che lì veramente ci sono una cinquantina di panini che raccolgono il meglio della produzione, diciamo, artigianale italiana per quanto riguarda salumi, formaggi ed altro. Poi ci sono anche delle paninoteche molto particolari, ad esempio ce n'è una a Milano, che è il chiosco Squadre di Calcio di fronte al Piazza Castello, sì, che è di fronte al Castello, che è il più cliccato su internet di Milano, per esempio. Quindi come alla Spezia c'è un'altra paninoteca che si chiama Fry, che è la più cliccata della città. E quindi c'è questo fenomeno che il panino, diciamo, sta tornando di grande moda, e soprattutto è diventato ormai il panino gourmet, perché anche molti cuochi hanno cominciato a firmare dei panini. Ci sono in giro per l'Italia delle paninoteche che hanno dei panini, ad esempio firmati da Nino Di Costanzo, che è un due stelle, cioè, ce ne sono altri che sono firmati appunto da cuochi ben noti. Quindi c'è un passo in avanti, mangiare con un panino oggi vuol dire anche mangiare delle raffinatezze. C'è Carlo da Torino che ci consiglia invece i fratellini a Firenze, dice l'Ampredotto a parte. Fantastico, lo stavo per dire. Ah, vedi, grazie, Carola, grazie, siamo Carlo. Attenti. Davide è attento, io non lo conoscevo, ma allora te lo proverò. Spiego. I fratellini è la paninoteca del mio periodo universitario. Ah. È in via dei Cimatori a Firenze e ci si siede su uno scalino. E ci sono, diciamo che sono cambiati nel tempo i proprietari, però lì ho mangiato dei panini straordinari che ricordo ancora tutti, ad esempio tonno e peperoni, lo ricordo perfettamente, e ho bevuto i primi grandi vini, diciamo i grandi chianti, Gallo Nero, li ho proprio cominciati a mangiare in questo piccolissimo locale, un buchetto, come c'è a Viareggio, un altro paninoteca importante, da Adone, che addirittura ha 60 tipi di panino, Pepen a Parma, oppure Buffet a Trieste. Poi potrei continuare perché io sono un appassionato di panini. Ma panino, quindi, tu a pranzo? Quando il panino? Sì. Pranzo. Ma io a pranzo ogni tanto mi vorrei mangiare il panino. Magari, diciamo, dove sono io è un po' difficile trovarne uno buono vicino. Però io lancio un appello anche. Vorrei cominciare a mangiare dei toast come Dio comanda. Ah, il toast, vero. Il toast è completamente dimenticato. Dove lo si fa? Lo si fa ancora dentro queste buste di plastica che sono già, a vederle, repellenti, queste che aprono, queste buste di plastica che sono lì da tempo, con un pane che assolutamente non è pane, dentro una fettina di prosciutto cotto e una sottiletta. Invece il panino, il toast ha una tradizione che va fatta in maniera molto particolare, con il pane speciale spalmato di burro, poi ci si mette diversi tipi di formaggio che si deve squagliare, e poi dell'ottimo prosciutto cotto, ottimo, però non quello che si trova in vendita di solito nelle paninoteche. Che meraviglia, mi ha fatto venire una voglia di toast e cappuccino, come si diceva un tempo, che... Toast e cappuccino è una buona abbinata anche per far colazione. Se vuoi ora faccio il viaggio nella ristorazione. E allora, visto che ci hai citato la Versilia, so che questa settimana ci porti in Versilia. Esattamente, Porto Versilia, mi ci vuole un po' di tempo perché la Versilia è una dei territori dove, peraltro, essendo... settembre c'è ancora bel tempo, c'è ancora, si può ancora fare, tra settembre e ottobre si può ancora fare, non dico il bagno, però una delle belle passeggiate in spiaggia, sì. Guarda, oggi mi dicono che si può fare il bagno in Versilia. Ah. Quindi cioè, è ancora si può, e ti dico che in Versilia, che è un territorio molto turistico ovviamente, si mangia la cucina, la qualità della cucina è eccellente. E allora parto da Viareggio, parto da un locale storico che si chiama Romano, dove veramente gli appassionati di pesce, ma pesce vero, quello di un oste che alla mattina va al mercato e si sceglie il proprio pesce. Ecco, da Romano si mangia pesce vero e diciamo che è poco arzigogolato, come dico io, nel senso che non viene cucinato con tante cose attorno, veramente è lasciata l'essenza di quello che è il pesce. Quindi credo, per gli amanti, proprio per i gourmet, è un posto che io consiglio, anche perché poi c'è una carta dei vini non indifferente, ed è un oste che si produce il proprio olio, cosa fondamentale, quindi un grandissimo olio extravergine che poi questa qualità si sente nella cucina. Poi andiamo a Pietrasanta, oggi balzata proprio alla ribalta, ormai Pietrasanta sembra diventata la capitale della Versilia, diciamo di sera, è diventato un po' anche cult, sta portando via molto, molto a Forte dei Marmi. Ebbene, a Pietrasanta ci sono due locali, uno è l'Enoteca Marcucci, il quale è un po' il clou della serata, diciamo, dove c'è lo struscio, proprio nella via dove c'è lo struscio, ci sono questi tavolini fuori dove si incrociano personaggi noti, molto noti dello spettacolo, ma anche molti, molti chef vanno a mangiare lì alla sera, quando hanno finito il loro servizio. Beh, garanzia, se lo chef va a mangiare da un collega. Sì, Sì, lì c'è una cantina straordinaria, quindi diciamo che il must è il vino, e Michele, che è il patron, sicuramente ogni volta fa assaggiare delle cose rare, poco conosciute, che va a scoprire, quindi questo è un posto sicuramente per gli amanti del vino e anche del cibo, perché ci sono degli ottimi piatti, però soprattutto del vino. Poi sempre a Camaiore, sempre a Pietrasanta, scusa, c'è Filippo. Filippo ha una cucina molto più toscaneggiante, diciamo, pochi piatti, ma basata molto sulla toscanità, quindi diciamo sono zuppe, ci sono la ribollita, c'è la pappa al pomodoro, e c'è una cucina, c'è un menù creativo e un menù tradizionale, quindi anche qui c'è ampia varietà di scelte. Sempre tra Forte dei Marmi e Pietrasanta, per chi ama la pizza, c'è una pizzeria che si chiama Il Merlo, si chiama Apogeo. Si chiama Apogeo e fa un'ottima pizza lievitata benissimo, quindi diciamo con tutte le tecniche moderne, quindi molto digeribile. Poi continuando ancora, andiamo a Forte dei Marmi. Forte dei Marmi, all'interno di un albergo molto chic, c'è un ristorante che si chiama Magnolia, quindi diciamo chi volesse scegliere in Versilia può scegliere, direi, per tutte le tasche, dalla pizzeria fino a ristoranti gourmet, fino a ristoranti anche abbastanza di un certo livello, e concludo con Lorenzo Forte dei Marmi, che è conosciutissimo, è un posto dove trovare un tavolo è davvero un'impresa, però sempre un posto molto ma molto valido. Quindi questo è quello da chiamare prima, quando si progetta una vacanza, a quello bisogna chiamarlo subito, perché è difficile trovarci un posto. Io direi di chiamarlo con 4-5 giorni, specialmente in agosto e settembre è abbastanza dura, mentre tutti questi posti tra l'altro sono aperti d'inverno, e io consiglio il pesce più d'inverno che d'estate, perché l'inverno l'acqua è più fredda, c'è un pesce, c'è più varietà di pesci, ci sono più specie, e allo tempo stesso il pesce è migliore, quindi si trova di più, non c'è il pericolo che arrivi dall'estero e sia congelato e decongelato. Quindi io credo che ottobre, novembre, dicembre sono i mesi dove andare al mare, e mi viene in mente Mare d'inverno, con la splendida canzone di Loredana Bertè. Sì, scritta dal nostro collega Enrico Ruggeri, sono molto contenta di citarlo. Allora, ti dico solo che stanno arrivando degli SMS. Carola, che ci scriveva dei fratellini, ti dice che hanno messo delle piccole mensole su cui appoggiare bicchieri di vino, anche se ci si siede ancora sugli scalini, quindi il Chianti di cui sopra è salvo. E poi Fabio ci segnala che a Milano ha aperto un locale che fa solo toast, e quindi noi lo andiamo a provare. Bene. Così. Finalmente. Esatto, finalmente. Andremo ad assaggiare i toast e poi vedremo se il primo a raccogliere, anche se involontariamente, l'appello per un buon toast l'abbiamo recuperato. Davide, che bello questo spazio del gastronauta, anche se ti confesso sono solo le 15:28 e ho già voglia di merenda. E questo è. Anche Valeria in regia mi guarda e dice: è un guaio. Vabbè. Sì, però diciamo che nei dintorni della sede non è che ci sia molto da poter fare merenda. No, ci salva magari, la linea. Magari un dolce a merenda con un caffè. Un dolce o un caffè. Davide, io spero di averti presto anche in studio con me. Un abbraccio grande, grazie per tutti i consigli del gastronauta e al prossimo sabato. Al prossimo, ciao. Grazie a Davide Paolini, come sono contenta di averlo nel sabato del villaggio. Noi ci ritroviamo tra poco perché parleremo di tecnologie. Adesso vado a recuperare Enrico Pagliarini, che si aggira per la redazione. Non so dove sia finito, ma tra poco saremo ancora insieme col sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo con la seconda parte della prima ora del sabato pomeriggio di Radio 24, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, libri, tecnologie. Il numero per i vostri SMS 349-238-6666. Se invece aveste in mano lo smartphone o un tablet e voleste interagire via Twitter, il mio account è @MartaCagnola. Molto molto semplice. Adesso però è il momento di parlare di tecnologie e io introdurrei il nostro Enrico Pagliarini, che è accanto a me con questa musica. Mm-hmm. felicità. Ecco, spazio, pubblicità. Beh dai, è un grandissimo pezzo, c'entra con quello di cui stiamo per parlare anche un tuo conterraneo. Altissimo livello, oh, bravissimo. Ciao Enrico, un modenese come te. Parliamo di nuove di tecnologie. No, allora è vietato parlare di nuove no, tecnologie, cioè bisogna vabbè. Parlare di tecnologia. Ah. Perché se noi diciamo che sono nuove, sono sempre nuove. Ah. E quindi non ci adeguiamo mai a cose che invece sono diventate normali. Allora, no? Rifacciamo. Caro Enrico, parliamo di tecnologie. Bravissima. Allora, bravissima. Di cosa parliamo? Perché io ho detto già nel riepilogo Adblock. Abbiamo hai già questa. Detto? Ho detto nel riepilogo Adblock. E poi ho detto: tanto Tagliarini ci spiega di che cos'è. Piccolo spazio pubblicità. Il tema è giusto? Sì, sì. Allora, parliamo. La pubblicità è diventata, ormai lo sappiamo, la moneta con cui sopravvive il web, perché i servizi che si pagano sul web sono pochi. Allora, o paghiamo con i nostri dati personali, anche se non ce ne accorgiamo, e ce ne freghiamo sostanzialmente, poi chissà un giorno che cosa scopriremo. Sì, infatti, sai quando me ne sono accorta io? Quest'estate sono andata in vacanza a Londra e ovviamente mi registravo in tutti i wifi gratis. Mi sono detta, sì. Ma io a chi sto dando i miei dati? Certo, al mondo? Sì, ormai tutta la Gran Bretagna i miei dati. Sì, sì, sì, è un plan grande. Quindi due modalità, o diamo i nostri dati personali e con i nostri dati personali vengono miscelati con altre migliaia e milioni, poi in qualche modo ci vengono offerti prodotti, pubblicità, eccetera. Oppure c'è proprio la pubblicità alla classica maniera, per semplificare, cioè il banner pubblicitario. Certo. E così sopravvivono i siti internet, anche quello di Radio 24, quello del Sole 24 Ore, no? Però qual è il problema? Che per molti utenti la pubblicità viene ritenuta un po' fastidiosa. Allora, su internet da molto tempo, se ne sta riparlando in questi ultimi mesi, ma da molti anni, esistono dei filtri, dei piccoli software che poi sono diventati nel mondo degli smartphone delle applicazioni, che servono per bloccare la pubblicità. Che si chiamano ad block. Ad come advertising, ho capito. Blocker, per bloccare. Si può anche, ho fatto una ricerca per provare, se uno scrive blocca pubblicità, negli store, sì, negli store dove si possono scaricare le applicazioni, si trovano questi softwareini che servono per bloccare tanto la pubblicità. Io davanti a un tablet e uno smartphone di due sistemi operativi diversi, quindi così provo, stai, così sono attendibile. Dovresti averne un terzo, però mi manca il terzo. O anche il quarto. Ma, sì, sì. Che cosa fanno? Funzionano molto semplici, poi diciamo se è giusto o non giusto. Sì, anche perché, ma poi te lo chiedo tra poco, ecco. Sì. È lecito usarli, no, non sono vietati, però è giusto o non giusto? Perché visto che noi siamo un editore che vive di pubblicità, la radio in modo particolare è per antonomasi il mezzo gratuito perché vive di pubblicità, uno si dovrebbe domandare se è un bravo consumatore, se è giusto o non giusto utilizzarli. Però visto che se ne parla, che cosa fanno questi softwareini che possono essere usati o sul computer, sui browser, quindi programmi per navigare in internet, oppure anche sugli smartphone? Ce ne sono di tutti i tipi. Se uno cerca appunto Adblock, il più famoso è Adblock Plus, che è molto utilizzato in tutto il mondo. Io qui ne ho trovato uno gratis, uno a 0,99. Ce ne sono di tutti i tipi, ce ne sono tantissimi. Che cosa fanno? Bloccano, cioè ti fanno vedere un sito internet senza la pubblicità. Quindi non c'è nessun tipo di fastidio, bloccano i pop-up, insomma fanno vedere solo cioè quelle finestrelle che si aprono oltre a quella su cui stai navigando. Sì, sì, ce ne sono di vario genere, di vario vertigo, però il succo di quello che loro fanno è questo, cioè tolgono dalla visualizzazione della pagina che io navigo su internet la pubblicità. Fine. Direi che funzionano quasi tutti abbastanza bene, ogni tanto non riescono a capire bene, quindi fanno passare attraverso i filtri. Rientrano nel grande capitolo dei filtri, perché ci sono su internet un sacco di programmini che servono per filtrare qualsiasi cosa. Se io volessi filtrare, che ne so, un certo tipo di siti, e magari un giorno parliamo di siti che non vanno bene per i bambini, ci sono dei software che bloccano anche questo tipo di siti, ci sono filtri per ogni genere. è giusto o non, o non è giusto? Eh sì, perché tu hai detto ovviamente anche Radio 24, anche il Sole 24 Ore ci campiamo, nel senso è uno dei tanti modi in cui si mantengono le testate. Esatto, il consumatore deve dire, ma io così facendo sono poi disposto a pagare questi servizi? Se invece io voglio i servizi gratis e in qualche modo poi gli editori devono sostenere i propri costi e quindi devo anche accettare di vedere la pubblicità. Quindi io sconsiglio di usarli, direi forse in alcuni casi ci sono dei siti che sono particolarmente fastidiosi. Cioè si possono attivare a seconda dei siti? Sì, sì, allora si può andare su un sito internet e dire questo escludilo. Cioè se io ad esempio tutti i giorni vado sul Sole 24 Ore, quindi sono un affezionato lettore del Sole 24 Ore, a questo tipo di software posso dire, all'applicazione anche sullo smartphone, posso dire fai un'eccezione per il Sole 24 Ore, fai un'eccezione per il tal sito. Peraltro poi se la pubblicità fosse anche mirata al lettore magari può anche interessarmi. Esattamente, chissà. Certamente, insomma, quindi ecco, un uso del genere è più accettabile. Però quando facciamo tutto ciò su internet, facciamoci delle domande, perché se tutti fanno così, poi va a finire che gli editori non sanno più. Già oggi non è che se la passano benissimo gli editori, perché sono lungo un guado molto, molto lungo, che durerà sicuramente molti anni, perché si sta passando da un modello in cui si pagano i contenuti, tranne alcuni casi particolari, che saranno così anche nei prossimi anni, ad un modello che è sostenuto dalla pubblicità su internet. E se noi combattiamo questo modello, combattiamo di fatto i siti che noi leggiamo con piacere e spero che siano anche interessanti. Però ne abbiamo parlato perché ultimamente anche Apple ha introdotto non proprio un software di questo genere all'interno del nuovo sistema operativo, all'interno di Safari, però diciamo ha reso possibile a tutti coloro che volessero fare un'applicazione di questo genere questa funzionalità in modo più semplice all'interno di Safari. Quindi si va verso quella direzione. Devo dire che c'è un dibattito molto ampio nel mondo della pubblicità, ci sono degli editori che stanno pensando di intercettare questi software e non far vedere nemmeno i contenuti agli utenti che usano questi software, che è una contromisura. Ah certo, così tu vuoi bloccare la pubblicità, io ti blocco tutto. Ti blocco tutto, io non ti faccio vedere. Devo dire, hanno ragione questi editori. No, io capisco, perché effettivamente io capisco, è una battaglia abbastanza... elimino il fastidio, però quel fastidio lì è quello che mi permette di avere il contenuto. Però diciamo che possono sicuramente, e sta succedendo di fatto, sono uno stimolo anche agli editori per trovare modalità per rendere la pubblicità più divertente, magari meno invasiva, perché poi la pubblicità in alcuni casi è bella, noi lo sappiamo, andiamo quando possiamo vedere la notte dei frequentatori pubblivori. Frequentatori della notte dei pubblivori. Sì, sì, io farei una radio di soli spot pubblicitari. Beh, sono d'accordo con te. La pubblicità quando è ben fatta, anzi, è uno stimolo a far meglio, perché forse, adesso non so se nel mondo è calata la creatività, però in Italia mi sembra che ultimamente di spot da ricordare non è che ce ne sono tantissimi. Un po' meno, un po' meno. Non dico di tornare ai tempi di Carosello. Comunque però non esistono cui... gli ad blocker per la radio, fortunatamente. Per ora no. Quindi facciamo una cosa. Noi, io aspetto il tuo consiglio dell'app della settimana. Ci ritroviamo tra poco, perché c'è sempre l'app e il consiglio di Enrico Pagliarini. A proposito di pubblicità, adesso non so se abbiamo anche un cluster pubblicitario. Sicuramente a quest'ora abbiamo tutte le indicazioni per chi sta viaggiando. In tanti sono in macchina a quest'ora, sabato pomeriggio. Qualcuno sta andando semplicemente a fare la spesa, altri staranno andando beati loro verso qualche meta del weekend. Quindi andiamo insieme a sentire come sta andando la situazione su strade e autostrade. Poi ci ritroviamo ancora tra poco con Enrico Pagliarini, col Sabato del Villaggio, con l'app della settimana, ma poi parleremo anche di cinema. Tutto questo tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento il Sabato del Villaggio. E rieccoci con Enrico Pagliarini. Tra l'altro il dibattito su Plus o Plus, qualche ascoltatore ce l'ho... Sì, vabbè, ma non è che uno sta lì a... No, nel senso che secondo me Plus ovviamente è latino, però iPhone Plus è un nome inglese. Ma certo, cioè un come marchio... media o media, dipende dai punti di vista. Io dico media, ma dico mass media, perché siccome mass media è inglese. Dipende, se uno parla l'inglese, vabbè. Allora, app della settimana, che cosa ci scarichiamo? Allora, scarichiamo Moovit con due O, Moovit alla latina... Adesso lo provo subito, vediamo. Allora, vediamo. Muovit, che potrebbe voler dire muoviti, dati una mossa, è un'applicazione, secondo gli sviluppatori, è diventata questa settimana la numero uno al mondo nel settore del trasporto pubblico. 28 milioni di persone la utilizzano, ci sono 700 città. Praticamente, se uno si deve muovere in città, è un'applicazione che ti indica quale bus devi prendere o quale bus devi prendere, quale metropolitana o quale tube devi prendere. Niente, non ce l'avevo. No? Ormai gli è molto simpatica, molto, molto interessante. Ci sono alcune applicazioni che sono sviluppate dalle società di trasporto, ecco, perché pubblico, perché infatti io già la sto installando, perché sì, io ho quella di Milano e quella di Roma, in realtà, ecco, nel telefono, ecco. Non ne ho altre perché sono le città che frequento di più. Ecco, allora, se uno vive a Milano, direi che molto probabilmente l'applicazione di ATM Milano è migliore di Muovit. Poi qui c'è il dibattito, loro dicono che non è vero, però secondo me sì. Il bello di queste applicazioni è che, avendo 700 città, se tu viaggi, quando arrivi in una città non devi perdere tempo per cercare quell'applicazione locale. Molto spesso le applicazioni locali sono migliori di quelle globali, non è sempre detto, ma spesso è così. Però sicuramente, se io ho un'applicazione che vale per tutte le città, questo è un grande vantaggio. Che cosa mi permette di fare? Perché appunto adesso non vorrei mettermi qua a giocare mentre tu parli, perché è maleducato, però l'ho installata e vedo che ci sono un sacco di cose interessanti. Sì, sì, tu puoi ad esempio dire: voglio andare nel tal posto. Lui ti geolocalizza, quindi sa dove ti trovi, calcola il percorso per andare nel tal posto e ti suggerisce ad esempio il mezzo pubblico da prendere. Quindi tu molto facilmente dici: ah, devo prendere il 18 barrato e poi magari prendere la metropolitana, ecco, quindi ti suggerisce un percorso. È gratis, l'ho appena scaricata, posso testimoniarlo. Gratis, sì, sì. No, poi se uno è un po' nerd, cioè se uno è un po' smanettone, è un'applicazione che ti permette anche di suggerire cose che ancora non ci sono, quindi se manca una linea e tu lo scopri, tu puoi contribuire alla comunità di sviluppo di Muovit e dire: guardate che per quel percorso si può prendere anche quell'autobus. Io sono un po' rompina con questo tipo, allora, di app, le mando sempre le segnalazioni. Tutti i sistemi operativi? Mi cogli impreparato su questo, però adesso siamo pronti per... Lo controlliamo. Su questo, allora, sicuramente per iPhone e per Apple e Android, perché sì, le ho scaricate, quindi mi cogli impreparato su Windows Phone. Adesso lo cerchiamo, perché gli ascoltatori vogliono saperlo. Sì, effettivamente dobbiamo dire: Windows Phone merita di essere sottolineato in Italia, perché ha una quota di poco superiore al 10%. Quindi è una quota importante. Andiamo subito a scoprire. Adesso ci dedichiamo al cinema, alla fine del cinema parliamo. Allora, ci facciamo una chiacchierata con Franco D'Assisti, sì, esatto. E tu intanto controlli. Io ascolto, parlo. Straordinario. Guarda. Allora facciamo così: per qualche minuto parliamo di cinema e poi intanto Enrico Pagliarini scopre la verità. Allora, ho già scoperto, ma ve lo dico fra poco. Facciamo un po' di cliffhanger, come si dice il cinema, il finale a sorpresa. Cinema! Ho un regalino per voi stasera. Vediamo se c'è ancora un po' di magia in quel mic. Domani iniziamo il pellegrinaggio a Myrtle Beach per la convention. Sarebbe stato bello conoscervi ai nostri tempi. Io direi che sono ancora ai vostri tempi. Questo trailer mi parla già di Begli Uomini. E di Begli Uomini in Begli Uomini. Buonasera, Franco. Madonna, ma come sei ruffiana, guarda. Senti, sei anche tu del un po' come... uscito da Magic Mike. Sì, insomma, siamo la mia tartaruga, al contrario, si è spiaggiata e quindi è così. Però comunque grazie lo stesso. E Channing Tatum, però, invece è tanta roba da vedere. Beh, ragazzi, questo film è pieno di bei ragazzi. Magic Mike XXL, XXL, dire così. Sì, andiamo ad approfondire questo XXL, sicuramente è un film che, come dire, cerca di seguire nel solco di quello che aveva iniziato questa piccola saga, che era diretto da Steven Soderbergh, che stavolta è un po' più dietro le quinte, ma comunque firma fotografia, montaggio. È un film, a mio modo di vedere, soprattutto veramente indirizzato a un pubblico femminile, perché c'è uno studio importante dietro il fatto che il pubblico femminile, soprattutto dei 30-40, è una fetta molto consistente ormai del cinema. È un film dignitoso, anche divertente in certi momenti, a mio modo di vedere, però non comparabile per riuscita finale a quello che aveva lanciato un po' questa storia. Beh, quindi ci mandiamo soprattutto il pubblico femminile a vederla. Assolutamente, a punto. Assolutamente. Tra l'altro è andato bene con... No, anche perché scusa Marta, se vai in coppia, tu non sai come Channing Tatum, cosa fai? Ah, no, vai con certo, la tua fidanzata, certo, poi lei rimane certo lì impalata a vedere Channing Tatum e tu ti deprimi, quindi punto fatele andare da sola. Maschile subito sul film. Andato bene, dicevamo, insieme a Everest, sì, sono due uscite. Sì, sì, sì, sono i due film nuovi, diciamo, di questa settimana che sono partiti meglio. Anche Everest, che aveva aperto il Festival di Venezia e che è un film di montagna, come dice anche il titolo, insomma, un film per appassionati anche di questo genere, è partito piuttosto bene, certo molto lontano da Inside Out, che sta dominando il botteghino da ormai 8-9 giorni, che sta ancora non, diciamo così, insidiando l'incasso totale dei Minions, ma che è ben avviato tutto sommato, e io sono convinto che sarà una battaglia interessante fra questi due film per vedere qual è l'animazione di questo inizio stagione un po' che trionfa. Quindi non consigliamo nient'altro per chi deve andare con i ragazzi, c'è perché già molto. Non c'è spazio per altri film nelle sale. Un mondo fragile, mi hai segnalato. Guarda, è un film interessante, lo voglio promuovere, a parte ricordare che la Rosa Purpurea fra poco alle 18 avremo anche ospite il giovane regista di questo film, che ha vinto la Camera d'Oro al Festival di Cannes, Cesar Acevedo, ha 27 anni, è colombiano, ha delle estensioni sterminate di coltivazione di canna da zucchero, e lì si svolge questo film, nel rapporto fra un'industria alimentare sempre più oppressiva, sempre più invasiva, e invece il desiderio di rimanere lì attaccati alla terra, sai, un po' come la casa ritorniamo all'animazione Disney di Up, no? La casa di Up. Gli scavavano intorno tutto, ma lui rimaneva lì, quel vecchietto rimaneva lì, ecco. Questi campesinos non possono volare coi palloncini, possono stare lì e beccarsi le polveri delle piantagioni addosso, ammalarsi, oppure provare a passare insegnamenti, tradizioni, attaccamento alle radici, ed è il racconto di un film che io consiglio davvero di vedere. Ultimo consiglio per questo appuntamento del Sabato del Villaggio, prima di risentirci con la Rosa Purpurea dopo le 18, un film italiano. Sì, un film italiano che anche questo è interessante per tanti motivi. Si chiama La Prima Luce, lo dirige Vincenzo Marra. Il protagonista è il Riccardo Scamarcio, che non ti aspetti, forse ha la migliore prova nella sua carriera per raccontare una storia di unione e separazione al di là dei continenti. Una coppia mista, un pugliese e una ragazza latinoamericana, un figlio, una situazione che non è più gestibile da questa parte dell'oceano, la nostra, e diventa forse una promessa quella di andare, di emigrare di là. E di questi tempi mi sembra un argomento trattato d'altro con grande delicatezza e grande potenza da Vincenzo Marra, tutto da seguire. Vincenzo Marra, dunque, che sentiremo alla Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18. Noi ci ritroviamo al Sabato del Villaggio il prossimo sabato, ancora con Franco D'Assisi. Siamo qua con te a raccontare il cinema. Ciao. E dopo il cinema, beh, insomma, siamo andati al cinema. Enrico, ci avevi lasciato in sospeso. Usciamo dal cinema, sì, sì. Allora, Moovit, sì, quindi che è scritta Moovit, esiste per App Store, iPhone, Apple, Google Play, quindi mondo Android, e anche Windows Store. Ah, quindi mondo Windows. Quindi siamo tutti coperti. Sì, sì, sì. Mi stavi facendo vedere che sul telefonino tu hai i biglietti della metropolitana. Ormai li usi così tu, quelli bellissimo, elettronici? Bellissimo. Se potete, se vivete in una città e la società dei trasporti pubblici ha messo a disposizione su un'app anche la possibilità di comprare i biglietti, questo è il mio codice QR code, e lo metti davanti al tornello della metropolitana e passi. Beh, e c'è tutto nello smartphone. Fantastico. Se ti si scarica la batteria sei morto, no? Grazie a Magic, no. Eric XXL. Ciao. Ci ritroviamo il prossimo sabato, e noi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 16. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani, e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove, lo sapete, il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutti i liberi consigli per il fine settimana. La seconda ora del sabato del villaggio, ma ci sarà anche una terza ora dalle 17 alle 18 con il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per contattarci, per commentare, per tenermi compagnia, il numero degli sms è 349-238-6666 o semplicemente su Twitter @ Marta Cagnola. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? I libri del momento, questa volta Alessandra Tedesco ci ha preparato un appuntamento molto dolce, ma scopriremo insieme perché. Milano in piena settimana della moda, ma cosa dobbiamo sapere della settimana della moda e soprattutto cosa dobbiamo comprare per la prossima stagione? Torniamo a parlare di serie TV, tutte le novità in arrivo, ma prima musica. La rivoluzione sta arrivando, la rivoluzione sta arrivando. Stai, lo scenario sta cambiando, si disegna un nuovo sfondo. E tu quale ombra sei? Con la testa tra le mani, mentre il La rivoluzione sta arrivando è il titolo di questo brano, ma anche il titolo del nuovo album dei Negramaro. L'album è uscito ieri perché, come sappiamo, da qualche tempo tutti gli album escono in tutto il mondo il venerdì, quindi c'è il Music Friday, non ci si sbaglia più, il venerdì è il giorno d'uscita degli album. Le classifiche non arrivano ovviamente subito, ma ci sono subito le classifiche delle vendite digitali. Neanche a dirlo, i Negramaro sono usciti e subito sono balzati in testa a tutte le classifiche digitali. Il singolo era già in testa all'Airplay, cioè alla classifica radiofonica, quindi non c'è niente da fare. I Negramaro erano veramente molto attesi, era da 5 anni che non facevano album di inediti e loro sono veramente molto amati, molto molto molto amati. A me ha incuriosito subito questo titolo, La rivoluzione sta arrivando, ma che cosa vuol dire? Di cosa tratta? Perché la rivoluzione sta arrivando? Ebbè, lo abbiamo chiesto direttamente a Negramaro. La rivoluzione sta arrivando è il titolo di una canzone, della prima canzone che apre la prepista di quest'album nuovo. Siamo ritornati, come sta tornando la rivoluzione. La rivoluzione sta ritornando sembrerebbe il brano più esplicitamente sociale, forse lo è, ma in realtà dovremmo aprire un altro, dovremmo fare un discorso molto più lungo sulla socialità delle canzoni, anche quando si tratti d'amore. Questo è un brano fondamentalmente sociale in cui tutti e noi sei ci siamo ritrovati a gridare in studio: salvala questa terra che gira e non si fermerà mai. Quindi c'è un atto di fiducia, anche un atto di fede nei confronti di quello che sarà anche la rivoluzione per tutto il pianeta. Però sentiamo la necessità di dover raccontare una piccola rivoluzione nostra per poter poi creare lo stimolo e spronare alla riflessione. Questo oggi fanno i titoli, no? Fanno i titoli, i grandi titoli dei giornali, i grandi titoli del cinema, dei libri. Cioè, in realtà è una grande riflessione. Noi abbiamo il potere di cambiare il mondo con piccoli passi alla volta. Cioè, l'arte ha un potere magico in questo senso, che sembra che sia qualcosa di sono solo canzonette. In realtà le canzoni in qualche modo cambiano qualcosa in qualcuno, quel qualcuno riflette un'altra roba e tutti insieme creano una grande rivoluzione. Crediamo che la rivoluzione che sta arrivando è proprio questa, cioè abbiamo fiducia che tutti in questo momento riflettono sulla necessità di cambiare se stessi per poter cambiare una società e renderla migliore. Come si fa a fare la rivoluzione in sei ed essere sempre in sei a farla, visto che è un periodo in cui le band scoppiano, litigano, voi invece no? Beh, basta essere coerenti con se stessi prima di tutto, essere coerenti con il progetto artistico, quello che è stato dalla nascita fino ad oggi, e avere un principio fondamentale nella vita che è quello del rispetto dell'altro. E quindi in qualche modo noi ci siamo nutriti di tutti questi ingredienti per arrivare alla ricetta finale che è Negramaro in qualche modo. Forse se i gruppi non riescono a stare insieme non hanno dei principi così sani e saldi come quello dell'amicizia, dell'amore, della poesia, dell'arte, della musica, della scoperta del mondo. Stai attenta, ha avuto tutto inizio in questa stanza, non per perdere di vista neanche l'ombra e fermati un momento a quel che sembra. A volte tutto quello che abbastanza. Alla presentazione di questo La rivoluzione sta arrivando dei Negramaro c'era tantissima gente, c'era tutti al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, davvero molto bello, con un'aria di grande ottimismo, di grande gioia. Strano, perché non se ne respirava da molto tempo nelle presentazioni dei dischi, con questo davvero spirito di rivoluzione che sta arrivando, gioia e ottimismo, e loro hanno riconosciuto, è davvero così, lo spirito è davvero questo, è Negramaro. È un discorso abbastanza semplice per noi, nel senso che noi siamo abituati alla ricerca di stimoli continuamente, quindi anche una semplice, tra virgolette, semplice conferenza stampa per noi diventa uno stimolo innanzitutto di confronto, quasi di psicanalisi per cercare di capire con chi sta dall'altra parte ad ascoltarci, cosa ci aspetta, cosa andremo a fare in questa nuova avventura. Quindi sicuramente il fattore energia, positività, voglia di vitalità in qualche modo è semplicemente una risorsa che noi cerchiamo di tutelare nel corso degli anni, perché altrimenti, insomma, dopo 15 anni sarebbe un po' difficile ritrovarsi ancora qui a parlare di nuovi concept, di nuove avventure, di nuovo viaggio. La strada si aggroviglia nei tuoi capelli, i lampioni che esplodono come fanali nei tuoi occhi, hai il cuore che sa di asfalto e di preghiere, e le macchine ti attraversano senza più guardare. Ma questa canzone, quante volte, dite la verità, quante volte l'avete sentita in radio, in TV, negli spot quest'estate? È stato uno dei tormentoni eterni di quest'estate. Io dopo un po' non ne potevo più. Cioè era tutto un sei tu la mia città, sei tu la mia città. Ma capitava anche in Negramaro. Cioè loro cosa pensavano ogni volta che accendevano la radio, la TV e sentivano la loro canzone o lo spot con la loro canzone Sei tu la mia città? Eccoli qua in Negramaro. Sì, a noi capitava, però non dicevamo basta. No. Dicevo ancora, io ancora. Cambio ogni volta. Lui cambia, io dico ancora, perché cioè, voglio dire, cioè, no? Lo dici tu, lo dico io? Chi lo dice? Dillo. Lo dico io. Cioè, è stupendo, è bellissimo. Cioè, lo dice lui. No, perché non lo dico nemmeno io né tu, lo dice lui. Quest'estate, no, si accendeva la TV e la radio, sempre i Negramaro, le Puglia i Negramaro, non dite sono mai. 12 no. anni che ci sono i Negramari. È una gioia, però pure io cambio. Grazie. Forse ragazzi. Io sono l'unico che non cambio, cioè sono fiero di questo. Odiano loro stessi, no, io no. No, mica odio. Tra l'altro è una gioia conquistata. No, la verità è questa, che è una gioia che conquistiamo ogni volta, per cui anch'io rimango sempre sorpreso e stupito da. Non è detto che in tutti questi anni, ogni volta che esce un disco, un brano, ci sia tanta accoglienza da parte dei network, dai giornalisti, per cui grazie anche di questa attenzione che non è mai né dovuta, anzi è una conquista ogni giorno, e devo dire che c'è mo, zio, nia, mo, se, pre. Rimboccami le maniche quando pioverà dei muri e soffiami sul mondo come quasi fossi vento. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera, mi addormenta la mattina e mi ricorda di essere tanti. Sei tu la mia città, quante volte l'abbiamo sentita? Beh, un brano che secondo me funziona benissimo quando si guida, forse perché appunto ci ricorda un certo spot. Allora, per tutti quelli che in questo momento sono in auto, stanno guidando, stanno andando da qualche parte, andiamo a sentire come sta andando la situazione su strada e autostrada e poi ci ritroviamo ancora insieme con il sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. E come vi dicevo, nel nostro sabato del villaggio, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, grandi fenomeni, è il momento invece di parlare di libri. sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting. È il momento dei libri, dicevamo, e Alessandra Tedesco mi ha giurato che questo sarà un appuntamento molto dolce, quindi io visto sono che hai protestato, adeguata. Hai protestato la scorsa settimana quando dalla Spagna era ti ho parlato lento. Di tutti di thriller. A proposito, ti ho portato il Chanchingorri. Il Chanchingorri. Questo è il dolcetto tipico della Navarra che si trova poi sui luoghi di delitti di un libro di cui avevamo già parlato, quindi, ma poi vi parlerò. Una dolcezza, un'aria appetitosa, poi sì. Vi racconto, poi vi dico com'è il Chanchingorri. Chanchingorri, dolce tipico della Navarra, scritto in un modo che, vedi, non si riesce a pronunciare, però giuro che si chiama Chanchingorri. Buono, buono, buono, ci facciamo la merenda dopo, Alessandra. Ecco, perché appuntamento dolce? Perché questo sugar sugar? Perché honey honey, c'è anche il miele nelle cose dolci della vita. Uno dei libri di cui si sta parlando parecchio in questi giorni è La custode del miele e delle api di Cristina Caboni. Se ne sta parlando perché lei era stata l'autrice nel 2014 del Sentiero dei Profumi, era stato nel 2014 l'esordio italiano più venduto, quindi insomma aveva fatto veramente un exploit, l'aveva pubblicato sempre con Garzanti. Stavolta torna con La custode del miele e delle api. Lei è un'apicultrice, abita a Cagliari in Sardegna, quindi sa tutto del miele. Quando sentirete poi l'intervista anche al Cacciatore di Libri, cioè lei è proprio appassionata delle api, del miele, eccetera, e racconta la storia di questa donna Angelica, che è una donna molto solitaria, non ha radici e fa l'apicultrice itinerante, cioè prende il suo camper, va dai vari produttori di api e gli aggiusta così gli alveari, mettiamola così. Roba strana. Poi c'è anche una storia d'amore con un suo vecchio amico d'infanzia nel ritorno della Sardegna, tale Nicola, ma insomma su questo non mi sto a dilungare. La cosa che mi ha colpito di questo libro è che poi alla fine lei fa una sorta di diario del miele, cioè ti dice, innanzitutto in ogni capitolo ti dice un tipo di miele, ti dice che caratteristiche ha, oltre che caratteristiche ha, che funzioni ha sul tuo corpo. Per esempio, io sono ghiotta di miele di castagno e ti leggo qua dal suo diario: è il miele della costanza e infonde coraggio nei cambiamenti. Bello. Il tuo? Guarda, io sono abbastanza classica, miele da caccia. Ah, è proprio sul semplice, sì, quindi sì, è anche facile sì. da trovare. Il primo che viene citato, eccetera, eccetera, dice: è il miele del sorriso, regala vitalità. Ce n'è sempre bisogno. Bene. Ce n'è sempre bisogno. Allora resto col miele da caccia. Quindi consigliato un libro a chi ama le storie un po' romantiche, d'amore, a chi ama il miele assolutamente, i paesaggi e anche le api. Il libro, lo ricordiamo, La custode del miele e delle api di Cristina Caboni. Alessandra, proseguiamo con i consigli, ancora consigli nel nostro Sabato del Villaggio. Allora, dal miele passiamo alle spezie, perché questo è un libro che mi ha affascinato, è di una scrittrice indiana, si chiama Anita Nair. Era quella che aveva avuto un discreto successo internazionale con Cuccette per signora ed è pubblicato da Guanda, si intitola L'alfabeto delle spezie. In questo caso appunto si parla molto di spezie. La storia è di una coppia, lui e lei, che sono in crisi dal punto di vista sentimentale e diciamo i ragionamenti, le riflessioni sulla vita, sull'esistenza avvengono nella cucina, dove diciamo la donna di servizio guarda che cosa succede a questa coppia, cerca anche di dare dei consigli alla signora, ma sempre attraverso le spezie. Quindi parla di vari cibi indiani, di spezie, insomma, visto che ero stata truculenta l'altra volta, questa volta ho detto andiamo sulle cose un po' più dolci. E anche le spezie, devo dire che hanno il loro perché. Devo dire che io ho amiche appassionate proprio di narrativa femminile indiana. Allora, nella narrativa femminile indiana ci sono moltissime le spezie, la cannella, sì, tutti quei titoli, anche così, la cucina, il cardamomo in generale, eccetera. Sì. Quindi l'alfabeto delle spezie è consigliato a chi ama le spezie, a chi ama sicuramente le scrittrici indiane. Vi assicuro che è un libro non banale sui rapporti fra uomo e donna. Bene, bene, questo mi fa molto piacere. Sono molto incuriosita invece dalla copertina dell'altro libro. Molto carina, una signora disegnata in bianco e nero con delle scritte fucsia. Però non lo leggo perché sono al contrario. Che cos'è? Spazio femmina, possiamo chiamarlo. Allora, l'ha scritto Elodie Joy, spero che si pronunci così, Jobert, ma mi interessa poco chi l'ha scritto, mi interessa il contenuto. Sette riti di bellezza giapponese, il metodo per una pelle perfetta e i capelli di seta, pubblicato da Sonzogno. No, me lo segno subito perché soprattutto i capelli di seta per me sono un po' un traguardo irraggiungibile. Marta, tu lo sai che io ho due passioni nella vita, i libri e le creme idratanti. So che sono agli antipodi, però ho letto chiaramente questo libro d'un fiato, perché insomma è anche piccolino, molto simpatico, ho imparato tante cose, alcune devo dire le conoscevo già, io sono abbastanza esperta di rituali giapponesi, per esempio. Cioè non solo di ordine, come dicevamo, lasciamo perdere l'ordine, il metodo di Marie Kondo lasciamo perdere, però per esempio le donne giapponesi per diciamo pulire il viso usano tutta quella che chiamano la doppia pulizia, cioè prima si fa il démaquillage, si toglie il trucco con qualche sostanza oleosa e ti consigliano anche quale, anche banalmente l'olio d'oliva, poi c'è la detersione vera e propria, poi si passa una lozione, poi c'è il siero naturalmente, il contorno occhi, la crema da giorno da notte e il balsamo labbra, quindi sono sette fasi che tu devi fare sia mattina che sera, quindi auguri. Intanto io e Roberta in regia ci siamo guardate di qua di là dal vetro, abbiamo detto sì, addio domani, io mi addormento a metà la io sera. Adesso mi faccio un Twitter, guarda che bella pelle che ho ai 45 anni per il rituale giapponese che già conoscevo. E invece per i capelli ho scoperto che usano le giapponesi sempre degli oli, fanno dei bagni d'olio, dice non vi preoccupate, poi ve li lavate, non si appesantiscono. L'olio di camelia e l'elisir delle giapponesi. Marta, questo è chiaramente un manualetto, insomma, come l'è stato l'intestino felice, sempre di Sonzogno, che era stato un caso editoriale quest'estate. Però sette riti di bellezza giapponese, il metodo per una pelle perfetta e capelli di seta, lo consiglio a tutte le donne che amano creme e cremine, da dei consigli anche per farle in casa, quindi per fare qualcosa per la propria bellezza, ma in modo anche economico e biologico. E un sacco di uomini che lo compreranno di nascosto. Ovvio. Solo donne, scrittrici donne questa settimana. No, adesso arriva il mio consiglio del cuore, cioè proprio il mio consiglio del cuore. Tra l'altro è un libro di cui si sta iniziando a parlare, a me è piaciuto molto. Lui è uno scrittore americano, David Levitt, è considerato un po' come dire l'esponente massimo della letteratura post-gay, cioè lui è uno scrittore gay dichiarato come Michael Cunningham, come tanti altri, però dice mi sono ormai scocciato di dover parlare sempre della questione gay nei miei romanzi, io parlo dei gay nei miei romanzi come persone appunto normalissime, non che debbano necessariamente avere un problema. Il libro si intitola I due hotel Frankfurt, è pubblicato da Mondadori, la storia è veramente bella, emozionante, sensuale, appassionante, di due coppie, siamo negli anni 1940, devono fuggire, sono fuggite dalla Francia, in un caso lei è ebrea, insomma devono fuggire per ragioni politiche e si trovano a Lisbona dove aspettano una nave che li porterà in America. E in realtà vivono queste settimane facendo amicizia queste due coppie, uomo-donna, ma fra i due uomini scoccherà una scintilla particolare di passione, incontri segreti e comprensione reciproca bella, intensa. I due hotel Frankfurt, David Levitt, veramente bello. A chi lo consigliamo? Già da come mi hai raccontato la trama so che potrebbe piacere intanto a me, ma a chi lo consigliamo? Guarda, io lo consiglio sia a uomini che a donne che vogliono vedere anche un pezzo di storia, perché la Lisbona di quegli anni era particolare e che vogliono vivere delle emozioni forti, che non hanno paura di nulla davanti a quello che può succedere nella vita. Un uomo può capitare di innamorarsi di un altro uomo, cosa che non era mai successo, ed è bella vedere anche la reazione delle loro rispettive mogli a quello che succede. Mamma mia, intenso. Alessandra, prima di lasciarti al tuo sabato sera, giustamente, appuntamento col cacciatore dei libri. Ve lo ricordo sempre, per i mattinieri alle 6:30 del sabato, per tutti gli altri alle 22, ma come sempre c'è il podcast, poi potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina per essere aggiornati, potete scaricarlo il giorno dopo quando volete. Molti lo scaricano e lo ascoltano quando vanno a correre. Bello, correre e ascoltano parlare di libri, così mi dicono quelli che mi scrivono. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Al prossimo, ciao. Il sabato del villaggio. E questa è l'ultima mezz'ora del Sabato del Villaggio, perché poi alle 17 il Sabato del Villaggio diventa Radio Tube, ma abbiamo ancora un sacco di argomenti di cui parlare. Abbiamo parlato di tante tante cose nella prima ora e mezza. Io vi consiglio, se non ci avete ascoltato, di riascoltarla poi la puntata al sito radio24.it. Si trova il podcast, c'è la puntata da scaricare, perché abbiamo parlato di Panini, di tecnologia con gli adblock, abbiamo parlato delle uscite al cinema, poco fa abbiamo parlato anche di libri, qualcosa di molto molto dolce. Adesso però entriamo in un argomento che per i milanesi è molto attuale, ma non solo per loro. Io mi farei accompagnare per ricordarci che non dobbiamo prenderci sempre così tanto sul serio da uno dei più grandi di tutti. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. Non so cos'è successo a queste facce, a questa gente, se sia solo un fatto estetico o qualche cosa di più importante, se sia un mio ripensamento o la mia mancanza di entusiasmo, ma mi sembrano già facce da rotocalchi da ente del turismo. Quando è moda, è moda. Quando moda è moda. Quando questa moda settimana moda. Milano bloccata, settimana della moda, sfilate, ragazze troppo belle in giro, queste cose che un po' ti demoralizzano. Allora, con la giusta punta di ironia e anche con il piacere di parlare comunque di una cosa bella, di un piacere della vita, la moda. E non posso non avere in studio la nostra super super super esperta di moda, Giulia Crivelli. Che bello averti, Giulia. Buon pomeriggio. Sì, tra una sfilata e l'altra in realtà, perché poi oggi è veramente intasatissimo ovunque, quindi contentissima di raggiungerti. Infatti ma... quando ho detto chissà se riusciamo a intercettarla tra uno spostamento e l'altro, perché è la settimana in cui poi girate come le trottole tra sì, una perché sfilata e l'altra. Soprattutto per la donna, ognuno vuole fare la sua cosa nel suo showroom o magari in una location strana. Milano non è grandissima, non è Roma, non è Parigi, non è New York, però spostarsi da una parte all'altra la città non è così facile. I milanesi lo sanno e si arrabbiano sempre moltissimo durante la settimana della moda, perché però, il traffico. Sì, è vero, però è proprio anche bello per noi milanesi cogliere questa occasione per scoprire dei palazzi che sennò sono sempre chiusi e dove vengono allestite delle presentazioni veramente spettacolari. Beh, un po' di invidia. Allora, intanto ti chiedo subito, non sono tutti espertissimi di moda. Che cosa si sta vedendo in questi giorni? Sì, è un po' sempre paradossale, no? Perché poi domani ci saranno le pagine piene di queste foto, ma le foto di queste cose, se per caso vi capitasse di innamorarvi di una borsa o di un outfit o di un look, purtroppo non sono in negozio, perché in questo momento noi vediamo le collezioni della primavera-estate 2016 che arriveranno in negozio dopo i saldi. E tra l'altro non tutto, perché c'è sempre questa differenza tra quello che si vede in passerella e poi quello che arriva in negozio. Perciò in realtà adesso nei negozi vediamo quello che qui a Milano abbiamo visto in febbraio, la collezione autunno-inverno 15-16. Allora, intanto comincio a chiederti in queste che cosa ti ha colpito particolarmente, perché io immagino che tu abbia poi visto in realtà di tutto ed è difficile stupire quelli che si occupano di moda sempre. Però, ed è anche un po', no? Uno si chiede 15 minuti, magari anche meno, e poi tutto finisce, tutto viene disallestito, però quei 15 minuti a volte veramente valgono la pena, o anche magari un'ora come nel caso delle presentazioni. Per esempio Balli, che è un marchio svizzero ma che produce tutte le borse in Italia, anche l'abbigliamento, ha fatto una dimostrazione a Palazzo Durini con degli affreschi che non sto a dirvi, anche lì mai visto se non durante la moda. Ha fatto una presentazione per chi andava a vedere la collezione di come si fanno le borse, perché loro hanno acquisito un atelier che si chiama Zagliani, che non è più un marchio proprio ma è specializzato in borse in pellami preziosissimi. Quindi c'erano questi pellami preziosi e la cosa bella, un artigiano non anziano, diciamo esperto, che affiancava una giovane ragazza, un apprendista proprio, che insieme a lui faceva le borse per farle vedere a noi giornalisti o ai buyer, cioè i responsabili dei negozi che vanno lì a dire voglio 10 di queste, 20 di quelle, una di quello. Eh sì, perché è una cosa che spesso tendiamo a dimenticare della moda, che non solo sono cose belle, spesso molto costose, ma c'è anche una sapienza nella... sapienza incredibile. Tra l'altro noi in Italia, io lo ricordo sempre, siamo l'unico paese al mondo che ha ancora la filiera integra, cioè di qualsiasi prodotto noi cominciamo dalle materie prime, che magari non sono fatte in Italia, perché il cashmere ovviamente non viene dall'Italia, o la stessa lana spesso viene dall'Australia, e poi sbuca alla fine di questa filiera il prodotto finito. Sì, cioè, infatti ero sicura, avevo esordito con questo quando è moda e moda perché lo sapevo che qualcuno sarebbe lamentato e dice parliamo del nulla. Non esattamente. No, tra l'altro io anche questo, forse anche un po', sono un po' noiosa, però dico sempre le sfilate sono la punta dell'iceberg, sono una micro punta dell'iceberg, perché pensate che qui vengono presentate 170 collezioni, quindi diciamo circa 270 marchi. Le aziende in Italia che si occupano di moda sono 60.000, per un fatturato complessivo di 65 miliardi. È un'industria che praticamente è seconda solo alla metalmeccanica, quindi questo è l'iceberg, appunto, sotto l'acqua. È un mondo ricchissimo che dà lavoro a tantissime persone e che poi spunta fuori nelle settimane della moda con un po' di glamour, perché sì. No, diciamo le cose che ti hanno colpito? Tanto, molto questa cosa, perché proprio a proposito del fatto che c'è quest'ansia, io vedo le cose ma non le posso comprare fino a quando saranno in negozio, quindi tra qualche mese, c'è chi ha pensato al instantly shoppable, e per esempio Moschino con questa collezione stranissima intitolata Clothed for Construction, cioè vestiti per costruire, che si ispira proprio all'abbigliamento di chi lavora nelle strade, dei famosi cartelli lavori in corso, si può già comprare sul sito. E Hogan ha fatto la stessa cosa con un meccanismo ancora un po' diverso, solo 100 pezzi di una certa scarpa per i primi che andranno online da oggi praticamente. Però praticamente sono comunque cose che, pochissime cose che puoi comprare oggi ma che metterai nel 2016 perché sono estive, diciamo, primaverile estive. Sì. Ah, fantastico, tutto ciò è molto bello. Però se invece io volessi chiederti un po' di consigli di quello che dobbiamo comprare ora, tu adesso cosa compreresti? Anche perché mi viene subito da pensare che questi oggetti così belli, così costosi, ovviamente vanno centellinati perché non possiamo permetterceli tanto, però magari vale la pena comprare le cose. Sì, io ci sono due secondo me cose, visto che probabilmente arriverà il freddo, magari i nostri ascoltatori che hanno la fortuna di vivere sotto Roma non lo dovranno affrontare, ma noi tra poco qui sicuramente. Ai e noi. Allora ci sono di nuovo tantissimi piumini nelle loro forme più diverse, il famoso piumino da città che ormai non possiamo più chiamarlo una tendenza e forse neanche una moda, è proprio che tutti si esercitano su questo piumino da città. Ne vedremo di bellissimi, dei marchi più famosi ma anche no, perché persino in queste passerelle che appunto erano primavera-estate abbiamo visto le versioni leggere dei piumini. Ah beh certo, perché ormai il piumino appunto perché poi uno magari si veste a strati, lo porta là in primavera quando è freddo al mattino, anzi, poi dicevi, se lo toglie. Sotto Roma magari quello leggero se lo comprano, esatto. Lo stesso quello più leggero magari se e poi invece il un piacere pochino, di comprarlo ce l'hanno un pochino più di tendenza proprio per chi, perché no, il piacere di seguire proprio la tendenza sono le scarpe pelose, cioè... No, allora io l'ho vista una pubblicità, l'ho vista su un giornale, non ci volevo credere, adesso non faccio la marca ma non perché non mi ricordo se era Prada o cosa, la pubblicità di un paio di scarpe, piedi in primo piano, gamba nuda, una specie di sabot, di pianella con il pelo sotto ma che sporge proprio. Sì, sono bellissime, io credo che siano scomodissime perché le vedremo secondo me anche no, davvero le vedremo in nella giro. Versione estiva le vedremo in giro, e ci sono quelle classicamente, quelle di Fendi con le pellicce più preziose, ne vedremo anche molte imitazioni, sappiamo dove ma... Ah certo, un'altra cosa che ti sto per chiedere, sì, quindi queste pelose in tutte le loro varianti, cioè le sneaker con un pezzo di pelo, il sandalo con il pom pom di pelo azzurro blu elettrico che spunta, oppure le sneaker con i pom pom come quelli delle calzine da tennis dietro, insomma le scarpe pelose effetto io ho visto... scopa, poi perché uno purtroppo tira su tutto quando no, però vabbè. Sono molto divertenti questo. Sì, quello è vero. Io ho visto proprio delle pianelle con la tomaia di pelo. Esatto. Che dire, vabbè, tutto bene. Questo è proprio è un po', poi appunto peli veri, estremo. Peli finti, peli sintetici, peli preziosissimi, però questo è la tendenza. Questa... per chi di noi ha un po' un piccolo animo da fashion victim. Ok, fantastico, però tu hai detto anche un'altra cosa molto interessante, Giulia. Li troveremo copiati. Allora, ormai succede così, che noi vediamo i giornali, vediamo le grandi tendenze, vediamo questi capi preziosissimi e poi abbiamo alcune catene che arrivano con una batteria di vestiti più o meno ispirate a questi grandi capi che per 30, 40, 60, 70 euro si comprano in batteria. Tra l'altro parlavo poco recentemente con una rappresentante dei Green Drop Awards a Venezia che diceva purtroppo purtroppo si consuma anche fin troppo, quindi buttiamo via anche fin troppi vestiti, anche per l'ambiente non è una grandissima idea. Io devo dirti che mi controllo da un po', perché mi sono resa conto che costano poco o più o meno, insomma, sono accessibili e rischi di comprare anche cose che non ti metterai. Comunque è un grosso problema. Io mi ricordo, ne ho parlato una volta in un'intervista con Miuccia Prada, e lei diceva: io non ho niente contro, diciamo, cosiddetto universo del fast fashion, cioè appunto a catene o aziende che sono così veloci che possono decidere di fare una cosa oggi e portarla nei negozi magari anche in meno di un mese. Però se decidi di farla oggi perché l'hai vista su una passerella e sostanzialmente la copi e la porti in negozio tra un mese, questo no, cioè la creatività deve essere originale. Poi c'è chi lo fa più così spudoratamente di altri, però ci sono anche delle riviste proprio che fanno vedere il look originale, quindi diciamo la cosa super preziosa da migliaia e migliaia di euro, e poi fanno vedere quello che invece è forse più affordable, abbordabile ed è molto simile, e naturalmente lo trovi in una delle grandi catene. Allora, c'è da dire che effettivamente mi viene il dubbio: se io fossi il disegnatore di una grande catena, io sarei qua alle sfilate e le copierei già per la prossima estate. Funziona così? È ancora più semplice, perché nell'era di internet è tutto in streaming live. O lo vedi sui siti direttamente delle aziende che hanno interesse comunque a capitalizzare, diciamo, su questo spettacolo di 15 minuti che può arrivare a costare un milione di euro. Quindi una sfilata dura un quarto d'ora? Un quarto d'ora, massimo. Accidenti. Massimo. Quindi nella tua giornata ci sono più spostamenti che spettacoli? Esatto, perché sono all'ora esatta, però per spostarsi da una all'altra, e a volte si accumulano anche dei ritardi, passa tanto tempo. Quante ne vedi al giorno? Bene, le giornate toste diciamo 8-10, che va anche un po', diventa un po' un frullatore, perché poi non ti ricordi se il vestitino che hai visto che ti ha colpita così tanto di chi era. Però appunto c'è questo problema di questa cosa del vedere grazie a internet, è un'arma a doppio taglio. Io mi faccio vedere dal mondo, ed in quel mondo c'è anche chi mi vede per copiarmi. Accidenti. A proposito, chissà se io vedo molte foto, magari le fai anche delle foto per ricordarti nelle passerelle quello che hai visto, comunque per prendere degli appunti. Però la foto più bella che tu hai postato su Twitter in questi giorni, cara Giulia, sono giorni che non so se l'hai postata ieri o l'altro ieri. Quanto mi sono divertita, sei riuscita a beccare la mitica, la grandissima, la diavolessa. Sì, il diavolo veste Prada. Prada. Allora, hai visto Anna Wintour, lei sì, in persona? Perché lei quando viene a Milano, lo sanno un po' tutti, lei va al Four Seasons, perché ha questa passione per il Four Seasons, che in effetti oltre a essere centralissimo è un ex convento, quindi in una giornata come ieri per esempio fare colazione all'aperto nel chiostro, ex chiostro del Four Seasons, è bellissimo. Un americano credo che colpisca ancora di più di noi. Però io ero lì per fare un'intervista e lei è arrivata e sembrava uscita da una fotografia, esattamente come ve la immaginate, il suo caschetto perfetto. Erano le 9:15, ma lei sicuramente aveva già giocato a tennis la sua oretta quotidiana. Era vestita Prada, muscolosissima, attivissima. Era lì con Amish Bowles, che è quest'altro giornalista di Vogue, che praticamente le reggeva la coda che non c'era, e camminava dietro, tipo un metro dietro a lei. Si è presa il suo cappuccino e poi è andata a tutte le sfilate del giorno, come nel film, come nel diavolo veste Prada, uguale. Però il cappuccino l'ha bevuto, hai visto se l'ha bevuto il cappuccino? Si nutre? Assolutamente, è andata al bar, io l'ho seguita poi perché poi l'ho anche salutata, anche secondo me non si è ricordata chi fossi, però per estrema cortesia ha fatto finta di riconoscermi, e ho visto che stava bevendo questo mitico cappuccino. E poi lei è molto golosa di gelato al caffè. Il mio sogno è portarla nella gelateria di Milano, che secondo me fa il miglior gelato al caffè che c'è, e quindi quelle sono le sue due, credo, piccole debolezze: il cappuccino e il gelato al caffè. Beh, sono conquistata da questo incontro di Giulia Crivelli con Anna Wintour, e davvero quando ho visto questa foto, beh, che ho subito retweetato in tutti i modi, sono impazzita. L'incontro col diavolo veste Prada di Giulia. Giulia, sfilate ancora fino a quando? Fino a lunedì, come sempre sarà King George, Giorgio Armani a chiudere questa settimana della moda, e poi c'è l'ultimo pezzettino di questo tour de force iniziato a New York, poi continuato a Londra, arrivato a Milano, che è Parigi, e poi si chiude questa tornata primavera-estate e si ricomincia. In realtà tutti stanno già lavorando alle prossime collezioni. Incredibile, è difficilissimo starvi dietro. Io guardo, mi piace, mi diverte, appunto, quando moda è moda, sempre con un grano salis, e mi diverte molto. Però che vita fate? Sempre leggeteci in giro, sul Sole, noi cerchiamo di seguire un po' tutto, di fare una sintesi sia giornaliera che al venerdì con Moda 24. Faccio un po' di pubblicità. Ma giustamente, Giulia Crivelli, super super esperta del Sole 24 Ore, ma la conoscete anche perché su Radio 24, autrice ci di... Ci sentiamo domani mattina. Domani mattina, esatto. Autrice di tante cose, abbiamo fatto anche tante cose belle insieme, sono sempre contenta di averla in studio con me. Grazie Giulia per grazie essere stata Marta, con noi. Grazie a te Marta e buon sabato, buona domenica a tutti gli ascoltatori. A presto anche per noi, perché abbiamo le indicazioni per chi viaggia, poi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento il Sabato del Villaggio. Ma come mi diverte sempre parlare di moda con Giulia Crivelli, perché mi fa scoprire un sacco di cose nuove che noi comuni mortali, che non abbiamo accesso a questo mondo così esclusivo, troviamo davvero tanto tanto curiose. Allora, abbiamo parlato di tanti argomenti nel nostro Sabato del Villaggio, abbiamo cominciato parlando di televisione con tutte le novità dei palinsesti, ma soprattutto proprio dei canali in Italia, del telecomando. Ma questa è la terza puntata del Sabato del Villaggio, della seconda stagione del Sabato del Villaggio, e non abbiamo ancora parlato di serie TV. I nostri ascoltatori sono appassionatissimi di serie TV e quindi andiamo a scoprire un po' di novità per quanto riguarda la prossima stagione televisiva, proprio per quanto riguarda le serie TV. Quello che vedrete fra poco va al di là di ogni logica e cambia le prospettive del mondo che ci circonda. E dovrete accettarlo per forza. Le novità della prossima stagione televisiva per quanto riguarda le serie TV. Alcune stanno anche per iniziare a giorni. Io ho scelto un brevissimo estratto da questa serie televisiva che si intitola Le Revenant. L'ho fatto apposta perché non so se lei ce ne vuole parlare, perché ha appena scritto un libro, ma io così la frego subito. Le faccio subito parlare delle Revenant, l'autrice dei Misteri delle Revenant, che è uscito da pochi giorni per Sperling Kupfer. La conoscete bene perché spesso è con noi al Sabato del Villaggio. Stefania Carini, buongiorno Stefania. Buon pomeriggio, no, grazie della sigla e della musica che mi ha già messo, come dire, mi ha già ricordato tutta un'epoca di scrittura su questo libro. E infatti tu volevi dimenticarti Le Revenant, non ne volevi più parlare. E invece ti chiedo subito, visto che so che sta per iniziare Le Revenant. Sì, parte di nuovo su Sky Atlantic il 29 e ovviamente è una serie molto attesa. Sono passati, era il 2012 quando è andata in onda la prima stagione su Canal Plus, da noi è arrivata un po' più tardi, ma già si era diffusa sempre tramite i classici scaricamenti un po' illegali, e è diventata una piccola serie di culto, anzi una grande serie di culto in Europa e anche in America, tanto che ne hanno fatto un remake, devo dire poco riuscito, proprio perché nella serie francese c'era una grande scrittura anche visiva dell'autore e regista Fabrice Gobert, e tra l'altro c'era questo interessante nuovo modo di raccontare i non morti, perché come forse sapete la storia, insomma, di questi persone che ritornano dalla morte sono come prima, non sono insomma zombie decomposti che a te so farebbero un po' paura. Esatto, perché io le cose che fanno paura non le guardo. Esatto, questo però in realtà poi alla fine fa paura, perché proprio sono inquietanti comunque, pur essendo tra l'altro molto belli. Ecco, questa forse è la cosa interessante, sono non morti, forse sono fantasmi, forse hanno anche un aspetto un po' vampiresco come racconto nel libro, no? Proprio perché hanno questa capacità di affascinare i vivi e di succhiarne in un certo senso l'energia. Adesso è grande attesa per la seconda stagione, perché la prima era finita con un enorme cliffhanger e quindi c'è tutta la curiosità di capire come andrà avanti la storia, se chiuderà la storia, se ci sarà una terza stagione. Ah, non lo sappiamo ancora se è stata rinnovata, perché gli appassionati di serie si aspettano sempre il rinnovo della stagione amata, quindi per ora due stagioni, una che abbiamo già visto in Italia, una che stiamo per vedere dal 29, hai detto. Dal 29, quindi manca pochissimo. Altri consigli, Stefania, secondo te cosa c'è da non perdere quest'anno come serie TV? Guarda, ti potrei dire due serie proprio legandoci subito al tema horror zombie. Una è sicuramente il ritorno di The Walking Dead, il 12 ottobre, anche in questo caso molto attesa e tutto quanto. L'altra parte invece a novembre, questo I Zombie, che va in onda su Premium invece, e dobbiamo aspettare ancora un po'. Però qua siamo su qualcosa che ti può piacere già di più, perché la protagonista è una zombie, però, come dire, deve mimetizzarsi con un trucco un po' dark, ecco che torniamo alla moda. Cioè fa meno paura delle altre. Esatto, quindi la consigliamo a quelli come me che non hanno proprio una passione per le cose che fanno paura. Esatto. Okay. E che a quel punto decide di, come dire, come una studentessa anche di medicina, di farsi assumere da uno studio di medicina legale, così insomma un po' di cadaveri ce li ha a disposizione. E però mangiando quei cadaveri scopre che può ricordare, cioè assume i ricordi dei morti, e a quel punto scatta l'indagine. Quindi è un po' teen drama, detective story, horror, ed è una serie molto, che ha avuto successo, molto interessante proprio per questo mix di generi. L'altra, ovviamente, il grande ritorno, a proposito di scarpe di pelo che sicuramente una delle protagoniste indosserà, è Empire. Ah, fantastico. Empire, ecco, questo non fa paura, è piaciuto anche a me, ambientato nel mondo della musica rap e hip hop. Bello. Sì, è vero, la protagonista la vedo già assolutamente Cookie, con le scarpe di pelo fissa proprio. Sì, sì. Non solo, prima puntata della nuova stagione da noi parte su Fox Life il primo ottobre, in America è già partita. Nella prima puntata Cookie indossa anche una sorta di costume di gorilla, ricordando ben altre star hollywoodiane. Quindi c'è molto interesse per questa serie, che è stata anche la critica, se, insomma, la sta valutando in maniera molto positiva come la soap opera più sovversiva, politicamente più sovversiva degli ultimi anni, perché ritrae la comunità black in un modo totalmente senza mezze misure. Quindi questa famiglia di rapper che ha un passato anche da gangster, di omicidi, e anche un presente insomma assolutamente non puro, e allo stesso tempo però c'è un modo, è un tentativo di ripulirsi e però di non abbandonare le proprie radici black. Insomma, sono i neri non raccontati dai bianchi, ecco. E questa è una, forse la cosa più interessante, ed è una serie totalmente anche sgangherata, non magari perfetta come piace a certi telefili o cinefili che amano solo le grandi serie da Netflix o da HBO. È proprio questa però la bellezza, che è popolare, arriva a tutti e tratta temi importanti per tutti con un linguaggio per tutti. La prima puntata però l'abbiamo vista, della seconda season però in America, non è ancora, esatto. Quella la dobbiamo ancora aspettare. Da noi parte 21 ottobre. Ah beh, quindi non l'aspettiamo tantissimo. No, non aspettiamo un mesetto. E poi nel frattempo ci sarà, ne abbiamo citato anche col direttore di Sorrisi Aldo Vitali, l'arrivo di Netflix. Stefania, avremo tanto di cui parlare, perché si parlerà tanto tantissimo di serie TV, perché non solo avremo, come hai citato, Sky Atlantic, i canali premium eccetera di Mediaset, non solo avremo le generaliste del digitale terrestre free, ma avremo anche Netflix di cui parlare, quindi ci sarà molto molto molto da divertirsi, cara Stefania. Non usciremo più di casa e passeremo il tempo a guardare le serie TV, sono molto contenta. Che già è una cosa che facciamo, che già facciamo, quindi non giustamente. Ho idea di cosa accadrà. Stefania, ti ringrazio tantissimo. Io lo cito. Grazie ancora il titolo, anche se tu non volevi il titolo del libro di Stefania Carini, che è appena uscito, I misteri della Revenant, per Sperling e Kupfer, appunto su questa serie molto molto molto paurosa di cui ci ha appena parlato. Grazie Stefania Carini per essere stata con Grazie noi, ti aspetto in studio. Ciao. Alla prossima. Allora, noi adesso ci salutiamo, perché è il momento di dare la linea al giornale radio delle 17. C'è già Piera Ceci che è pronta con il giornale radio, ma noi ci ritroviamo tra poco, perché dobbiamo cambiarci d'abito e perché sarà il momento di Radio Tube. A tra poco.